8. Ascolta e controlla. 1. Non mettete lo zucchero nel caffè? 2. Oggi gli zii di Mario non sono a casa. 3. Per il picnic dobbiamo prendere lo zaino. 4. Lo zoo della città, oggi e domani, è chiuso. 5. Fanno sempre gli stessi errori? 6. Questo è lo scontrino per la cassa. 7. Lo sconto su questo prodotto è del 30%. 8. Prendi lo sgabello che è lì, a destra. 9. Qui gli spazi sono molto limitati. 10. Purtroppo lo specchio del bagno è rotto.